Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Freelance e nomadi digitali, quella odierna è la puntata che abbiamo pensato per voi. Lo faremo consigliandovi un paese europeo che, secondo le ultime notizie, si sta imponendo come meta alternativa e di grande interesse per tutti i lavoratori autonomi dotati di una forte propensione alla mobilità. Stiamo parlando del Portogallo. Ad accompagnarci in questo viaggio alla scoperta delle opportunità nel paese lusitano sarà una designer freelance che, proprio in Portogallo, ha trovato l'opportunità di sviluppare il proprio percorso professionale. Sarà lei a spiegarci i pro e i contro di un trasferimento a Lisbona. Il nostro menu ci offre, come ogni settimana, numerosi altri spunti interessanti. Tornano gli approfondimenti del Sole 24 Ore del lunedì, tornano le ultime opportunità lavorative in Europa con Eures Italia e torna anche la nostra finestra sulla Cina con l'ideogramma di Emanuela Verrecchia. Da Occidente a Oriente, da Lisbona a Pechino, il nostro viaggio nel vostro futuro professionale all'estero sta per iniziare. È ora di imbarcarsi. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana è una menzione dovuta per 5 talenti della ricerca italiana al lavoro oltreoceano. Sono tutti under 40 e sono stati recentemente premiati per i loro progetti da ISNAF, organizzazione che riunisce oltre 4.000 docenti e ricercatori italiani tra Stati Uniti e Canada. I 5 sono Angela Bonomi, al lavoro all'Università delle Hawaii, Camilla Pacifici, in servizio alla NASA, Giulia Sacca, assistant professor all'MIT di Boston, Marco Pavone, già ospite di Generazione Mobile, nel lavoro a Stanford, infine Marco Ruella, in servizio alla University of Pennsylvania. Toolbox. A Toolbox tornano le anticipazioni del Sole 24 Ore del lunedì. Ascoltiamo dunque cosa ci riserva il menù odierno della nostra cassetta degli attrezzi insieme a Francesca Barbieri. Buongiorno a Francesca Barbieri. Buongiorno a voi. Allora Francesca, come ogni 2 settimane, anche stavolta vieni a darci qualche succosa anticipazione dell'inserto lavoro carriera del Sole 24 Ore che sarà in edicola lunedì, quindi tra 2 giorni, e anche oggi parliamo di carriere internazionali perché c'è un bando interessante. Sì, esatto. Sul Sole di lunedì, nella sezione Lavoro e Carriere, segnaliamo il programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni Internazionali. Noto anche come programma JPO, è un'iniziativa finanziata dal governo italiano attraverso la Direzione Generale per la Cooperazione dello Sviluppo del Ministero degli Esteri e l'Agenzia per la Cooperazione dello Sviluppo, ed è curata dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite. Allora, andiamo molto sul pratico, perché immagino già i nostri giovani ascoltatori, magari laureandi o appena laureati, potenzialmente le antenne drizzate. Chi si può candidare? Quali requisiti occorre avere? Intanto occorre essere nati dopo il 1 gennaio 1987. C'è una deroga per i laureati in medicina che possono essere nati dopo il 1 gennaio del 1984, essere italiani ovviamente e avere un'ottima conoscenza della lingua inglese. Il programma è indirizzato ai laureati specialistici, ma che possono essere appunto laureati magistrali oppure a ciclo unico, ma anche ai laureati triennali che abbiano conseguito un titolo di master universitario. Quindi la platea è molto ampia e questo allarga anche le opportunità, meno male. Tipologia del contratto offerto però? Sì, viene offerto un contratto a tempo determinato di 2 anni. Tanto per avere un'idea, in tempi insomma sempre di salari un po' magri, quanto è il salario quantomeno lordo annuale? Allora, il salario base per il livello che andranno poi a ricoprire questi ragazzi, che comunque è il livello di funzionario, è di $46,000 l'anno. Però a questo livello base va aggiunto un adeguamento che varia da paese a paese a seconda del costo della vita locale. Quanti posti sono messi in palio, soprattutto se c'è già un'idea sul dove anche si potrebbe andare? Allora, i posti non sono molti, purtroppo sono appena 40 posti, per cui chi fosse interessato si deve attivare subito. Si può andare in tutte le sedi estere delle Nazioni Unite, non c'è una, diciamo, sede specifica, ma sono previste diverse sedi in altrettanti paesi del mondo. Quindi è un'occasione comunque abbastanza unica di poter fare un'esperienza di alto livello per la più importante organizzazione internazionale, anche in paesi dove difficilmente si riuscirebbe ad avere un'opportunità di lavoro. A questo punto abbiamo tracciato, Francesca, un po' tutto quanto l'identikit di questo bando. Resta solo da dire, ricordando sempre che tutti i dettagli saranno poi in edicola lunedì col Sole 24 Ore, però resta dire entro quando bisogna candidarsi, perché i posti, abbiamo sentito, sono pochi, e anche come fare. Sì, allora per candidarsi c'è tempo fino al 15 dicembre alle ore 15. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente online attraverso il sito www.undesa.it. Il testimone. La testimone della settimana è una professionista freelance di 37 anni che ha fatto di Lisbona la propria casa, approfittando di un ecosistema che sta diventando molto popolare tra i lavoratori autonomi europei. Per chi vuole mettere in conto un trasferimento in Portogallo, sono in arrivo consigli preziosissimi. Buon pomeriggio, Ilaria Federici. Ciao, buon pomeriggio. Allora, Ilaria, originaria di Fusignano, patria di Arrigo Sacchi, studia liceo artistico prima di iscriverti a una scuola professionale per il graphic design. Hai cominciato a lavorare presto, ma soprattutto hai cominciato a girare molto presto per l'Europa, anche grazie a programmi comunitari, questo ricordiamolo. Partita da Malta, quale percorso hai intrapreso per l'Europa prima di approdare in Portogallo, in estrema sintesi? Sono andata a Malta grazie a un programma Leonardo, una specie di stage pagato dalla comunità europea. Lì poi sono rimasta un anno e mezzo perché mi hanno assunto dove poi avevo fatto lo stage. Dopo lì decisi di tornare in Italia, ma tipo dopo un anno e qualche cosa ho deciso di ripartire perché, diciamo, non mi ci sentivo più a mio agio. Chiaro, e stavolta sei andata in Portogallo. Di cosa ti occupi esattamente? Qual è la tua attività principale? Principalmente lavoro su grafica e web design e gestione dei social. Proprio ultimamente me ne occupo proprio a tempo pieno. Sono rimasta qui perché amo questa città nella buona e nella cattiva sorte, come in un matrimonio, è scritto a generazionemobile@radio24.it. Partiamo da qui. Quali sono gli aspetti positivi e quelli negativi del vivere in Portogallo? Positivi sicuramente il clima, perché è molto simile a quello dell'Italia del Sud. Temperatura mite, una luce che assolutamente chi ha visitato la città o comunque il Portogallo riconoscerà che è differente. E lo stile di vita in generale, le persone sono molto più rilassate. Quelli negativi? Ora, magari ne avete già sentito parlare, si parla qua degli stipendi che mediamente ovviamente sono più bassi, al di là del fatto che si lavora anche molto come freelance. È vero, come sostengono alcuni articoli usciti anche di recente, che il Portogallo sta diventando una nuova mecca per freelance e giovani attivi nel mondo digitale, e se sì, perché? Sì, questo è vero, oltre al fatto che fanno il Web Summit praticamente ogni anno qua. Diciamo che è un posto dove ci sono un sacco di posti di co-working, di incubatori culturali e anche proprio di associazioni che fanno, diciamo, percorsi di formazione per il digitale. Questo è assolutamente vero. Sì, guarda, io ultimamente sono andata in un incubatore che si chiama Impact Hub, che è a Lisbona, in Alcantara, e dove fanno corsi anche di progettazione, di design. Parliamo di lavoro. A chi consigli il Portogallo come paese per vivere e lavorare? Lo consiglio fondamentalmente a chi non ha bisogno di una sede fissa, a chi può lavorare via Skype, chi può lavorare anche solamente attraverso portali, forum, o comunque sì, qualunque professionista possa aver bisogno solo di un computer e di una connessione a internet. E concentrandoci sui freelance come te, una categoria che sta vivendo un periodo abbastanza importante in Portogallo, quali sono i tuoi consigli base per chi si volesse trasferire nel paese lusitano? Consigli fondamentali: avere già una serie di clienti fissi, diciamo, con cui si collabora. Eventualmente, ovvio, una volta che si è sul posto e si parla bene la lingua, nel senso, è necessario magari interagire anche con aziende locali, insomma, questo assolutamente. Però sì, il mio consiglio è quello di avere già un pacchetto clienti. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta. Noi torniamo subito dopo. Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la storia e i consigli di Ilaria Federici, 37enne graphic and web designer in Portogallo. Una vita da nomade digitale, quella di Ilaria, che ha cambiato vari paesi europei prima di trasferirsi nel paese lusitano. È lei stessa oggi a raccontarci cosa è necessario fare per programmare un futuro a Lisbona, città dove è possibile far combaciare qualità della vita e soddisfazione professionale. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Per chi cerca un lavoro stabile, su quali settori orientarsi in Portogallo? Allora, per lavori stabili, qua lavori per italiane, tra virgolette, ci sono i classici contact center, oppure per chi, diciamo, ha già una professionalità nell'IT o comunque nella programmazione, o comunque nelle nuove tecnologie, diciamo per la maggiore vanno informatici, ingegneri, web developers e così via, insomma. Occorre sapere il portoghese per lavorare, sì o no? No, perfetto. Si va benissimo con l'inglese. Ottimo, e i salari sono bassi, giusto? I salari mediamente si aggirano sul 650-700 se parliamo del minimo, e parlo per gli italiani, e massimo può essere sui 1500 se si parla di un contratto magari più strutturato, e questo dipende molto dalle lingue conosciute. Un'ultima cosa, il problema casa. Qui bisogna fare attenzione soprattutto a Lisbona, avverti perché? Sì, perché ultimamente ci sono stati molti problemi legati alla gentrificazione, diciamo alla speculazione edilizia che c'è stata soprattutto in centro, ma anche in zone abbastanza vicine al centro, dove hanno costruito molto e affittato soprattutto ai turisti. Per cui case per, diciamo, comuni mortali quasi non se ne trovano più, e ti parlo di prezzi che una volta si riuscivano ad affrontare, 400-500 euro, adesso sono praticamente raddoppiati. Ci raggiungerò in linea Daniele Coltrinari, autore di C'era una volta in Portogallo e Lisbon Story. Buon pomeriggio, Daniele. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Daniele, sono tanti gli italiani in Portogallo, tra Lisbona e il resto del paese? Sono tanti, ma non si riesce a capire quanto. Le stime ufficiali dell'AIRE parlano di 8.300 italiani in Portogallo. In realtà io credo, bilanciandomi, che siano ormai 8.000 solo a Lisbona. Dove lavorano soprattutto? Ci sono tre tipologie, dividiamoli così, poi in realtà è molto di più, però partiamo dai contact center, quindi classici call center, dove lavorano soprattutto giovani che vogliono fare delle esperienze all'estero, in Portogallo, in questo caso a Lisbona o Porto. Ci sono molti investitori privati, ci sono tantissimi italiani che negli ultimi tempi hanno aperto attività della ristorazione, questo grazie al fatto che la burocrazia è molto più snella in Portogallo. E poi ci sono parecchi, quelli che potremmo chiamare fuochi in cervella, parecchi ricercatori anche, che lavorano nelle università. A chi consigli il Portogallo, Daniele? Questa è una domanda molto difficile a quale rispondere. Qualche anno fa potevo consigliarla a chi volesse fare un'esperienza all'estero diversa dalle solite mete, Londra, Berlino, Barcellona. Oggi posso consigliarla a chi magari può permettersi di, senza perdere il lavoro, di spostarlo a Lisbona. Un freelance, come dicevamo prima. Un'ultima cosa, Daniele, prima di salutarci. Ci sono siti o punti di riferimento online a cui guardare per trovare dritte o spunti utili per lavorare in Portogallo? I siti a cui guardare, al di là di quelli ufficiali più conosciuti, possono essere Italiani a Lisbona, di Zingarate. Può essere un blog che parla di diversi aspetti sociali e culturali, Sosteniamo Pereira, e poi c'è anche un Lisbon Storie, che non c'è il mio commentario, è un altro blog a cui abbiamo preso spunto. Grazie a Daniele Coltrinari, e c'è la nostra domanda di rito per Ilaria Federici. Quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Dare un'occhiata su questi siti di reclutamento online, dove si cerca più che altro per lingue conosciute. Ovviamente sono già non ha un lavoro nella sua professione, diciamo. E poi soprattutto, tranquillamente, possono arrivare parlando inglese, però il consiglio che do assolutamente è di fare subito un corso di lingua, ovviamente per integrarsi meglio, ecco. Poi alla fine il portoghese non è difficile. Job abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Tornano le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia, che ogni due settimane ci aggiorna sulle migliori opportunità disponibili. Anna Melinelli, Eures Italia. Secondo i dati dell'Osservatorio Europeo dei Posti di Lavoro Vacanti e il rapporto sull'occupazione 2016 della Commissione, il settore sanitario ha fatto registrare un trend occupazionale in progressiva crescita, rappresentando uno dei maggiori settori per la richiesta di posti di lavoro. Per questo motivo il nostro ufficio ha iniziato già da alcuni anni a collaborare con i vari partner europei al fine di promuovere la mobilità circolare dei professionisti nel mercato del lavoro, coinvolgendo anche i maggiori stakeholder a livello nazionale come il Ministero della Salute, l'IPAD, la FNUCEO. Tra le centinaia di offerte di lavoro che potrete trovare consultando il portale europeo della mobilità Eures, che contiene circa 1,5 milioni di offerte di lavoro, troverete per i profili sanitari richieste provenienti soprattutto dal Regno Unito, Irlanda, Belgio, Francia, Olanda e Paesi Scandinavi. In particolare oggi vi parlo di offerte per i medici che abbiamo ricevuto, che sono particolarmente urgenti, che provengono dalla Danimarca per l'ospedale Lillebælt nel sud della Danimarca. Si richiedono varie professioni, professionisti quali radiologi, psichiatri, neurologi, urologi, anestesisti, gastroenterologi, chirurghi, reumatologi, ginecologi ed ostetrici in molte regioni. Queste offerte sono particolarmente interessanti sia per lo stipendio di circa 120.000 euro anno lordo, ma soprattutto per la presa in carico da parte dei servizi Eures danesi, dei datori di lavoro, per tutto il nucleo familiare, con un corso di lingua intensivo gratuito. Ci sono anche posizioni per gli specialisti esperti nel settore che lavorano in maniera autonoma, percependo un 10% di più di stipendio. Se siete interessati a queste offerte di lavoro, rivolgetevi alla nostra rete di consulenti Eures locali. Ulteriori informazioni possono essere trovate anche sul sito Eures danese, tre volte www.workingdenmark.dk o sul sito AMPAL nella sezione Eures. Il nostro sito è tre volte www.ampal.gov.it. Internet Point. Siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Spazio alla nostra rubrica mensile L'Ideogramma, a cura di Emanuela Verrecchia. Oggi Emanuela ci aiuta a rispondere a due domande molto pratiche per chi si trasferisce in Cina per motivi di lavoro. Come si apre un conto corrente una volta approdati in Estremo Oriente e quali sono le modalità di pagamento più frequenti? Nella puntata di oggi parleremo di soldi, come aprire e chiudere un conto corrente in Cina, cambio valuta, carte di credito e bancomat. Allora, aprire un conto corrente in una banca in Cina è molto semplice, i costi di gestione sono di gran lunga più bassi rispetto alle banche in Italia, quindi conviene aprirlo anche se ci si ferma in Cina solo per qualche mese. I bancomat sono molto diffusi nelle città e si può prelevare anche con un bancomat straniero pagando la commissione. Se si cambiano renminbi in altra valuta, ad esempio dollari o euro, ci sono, ricordarsi, delle limitazioni per gli stranieri, al massimo $500 al giorno e un massimo di $50.000 all'anno. È quindi utile aprire un conto corrente in doppia valuta, soprattutto se si intende viaggiare. Ottenere una carta di credito in Cina è di norma molto difficile. Io, ad esempio, con HSBC non ho mai avuto una carta di credito, benché abbia lavorato in Cina per 10 anni e benché avessi un conto Premier. Il cash è usato sempre meno, la gente va a fare la spesa e paga con WeChat, direttamente con il telefonino, anche da furtivendolo, ecco, non sono nei grandi magazzini. Quando si lascia la Cina definitivamente è consigliabile chiudere il conto anziché lasciarlo morire, perché in alcuni casi ci possono essere delle penali, ad esempio il caso di HSBC se si ha un conto Premier. E se si dimostra di aver regolarmente pagato le tasse in Cina, si possono convertire in altre valute renminbi guadagnati in Cina senza limitazioni. Ma è essenziale presentare alla banca tutti i documenti che provino l'origine dei guadagni e che provino che le tasse sono state pagate. Può essere questo un procedimento che richiede alcuni giorni e richiede la collaborazione del proprio datore di lavoro se si è dei dipendenti. Controllare poi sempre se le disposizioni in materia di trasferimento del denaro dalla Cina all'estero cambiano, perché è un settore piuttosto sensibile. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.cinadifrontiera.com.